detto fammi la far dopo. Già da piccolino infognato per il rap, andavo a dire in giro guarda quella è la mia tag. Guardavo film di Spike dove si spacciava crack e andavo pazzo per Dr. Dre e il Wu-Tang. Col tempo si migliora, un altro mondo che si esplora e capisco solo ora che per me non era moda. Quattro discipline, per lui e sono incline, questa è la vera gioia per cui si vive. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. È una vita che ci sono, fedele alla mia gente, resto legato al suono. Sono cagna con i pantaloni larghi che girava, rispettoso dei più grandi e di chi già ci stava. Assimilavo, ci provavo a volte senza risultati. L'ICA che m'ha forgiato non l'ho mai dimenticato, resto inciso nel mio cuore, perché oltre che duro conosce anche Simone. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Dallo svita a vita, taglia e poni sulla libra. Questa vita vive e scade, muove le tue dita come il fumo in una siga. Si aspira e mi ispira, dall'elementare al master in sativa. Sono anni che provo emozioni in rima, facendo una stima. Ora mi sveglio ogni mattina con la faccia piena. 8 ore di lavoro per restare in riga, ma una vita che io punto in cima, che cerco stima. Amore grana e non mi trucco per la fama. Ho fame di sensazioni e pura adrenalina dentro ai miei polmoni, libero spazio e le creazioni. Intenzioni da quei pensieri che dirottano le istituzioni. Voglio milioni di ragazzi consci dei propri coglioni. Il nostro tempo l'abbiamo fatto, è giunta l'ora che si passa un altro atto. Passato un botto di tempo a farci diventare il culo piatto. A 14 anni sempre sul porto, le foto gangsta col cappellino Compton. Non è arrivata la vecchiaia, mi sento ancora a camminare sulla ghiaia. A San Lazzaro sulla rotaia, Minis to Society Loop. Vedevo sparatorie come fossero una sop. I nostri tempi più di skit che di altro, ma noi ragazzi non ce ne fotteva più di tanto. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei. Non so tu dove sei, è una vita che ci sono frei.